Perfetto Giorno di Simone Spezia. È morto a 84 anni Paolo Villaggio, come sapete anche da quello che vi abbiamo raccontato questa mattina, e da Melog con i film di Fantozzi, gigante della cultura popolare, della satira, della vita d'ufficio. Migranti, nuove regole in arrivo per le ONG in base all'accordo con Francia e Germania, controllo delle coste alla Libia. Calano gli occupati nel mese di maggio, aumenta di nuovo la disoccupazione giovanile, quella generale sale all'11,3%. Trump, scontro con la stampa sul fronte interno e con la Cina nel mare. Nave americana vicino ad una delle isole contese. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Siamo anche in diretta come sempre su Facebook, sulla nostra pagina, così come sulla pagina di Radio 24, e se volete potete commentare anche là. Partiamo dunque con questa puntata del lunedì di Effetto Giorno dalla morte di Paolo Villaggio, della quale si è avuta notizia questa mattina. Sappiamo come sempre che ogni volta che partiamo con qualche argomento, come dire, che non rispetta propriamente l'agenda politica, politico-economica, qualcuno se la prende. Ma perché parliamo in apertura di Paolo Villaggio? Perché, come si diceva nei titoli, è stato un gigante anche della satira, della vita d'ufficio e non solo. Partiamo dunque così, partiamo con quest'audio. Con l'alternarsi di saggi governi, il popolo italiano ha ormai raggiunto un alto grado di maturità. I lavoratori, operai e impiegati hanno finalmente capito che la produttività è alla base del benessere sociale e l'unica strada per uscire dalla crisi. Fateci entrare, vogliamo lavorare! Questa sera voglio fare 3 ore di straordinario! Bisogna aumentare la produttività! Non posso vivere senza le mie pratiche! Non posso! Ma aiutiamo vivere. Questo nostro paese, aiutiamolo! Andiamo a piedi che guadagniamo tempo, su! E da qua inizia tutta la scena nella quale Fantozzi viene abbandonato da solo in ufficio e tutti gli altri vanno a fare un secondo, un terzo lavoro, prendono il surf per andare al mare, si piazzano sul terrazzo a prendere il sole addirittura con il bagnino. Dunque, anche questo, e non solo naturalmente, Paolo Villaggio. Marta Cagnola, buongiorno. Buongiorno Simone. Sai, stavo riflettendo questa mattina proprio su questo aspetto. Se ci sono lati di Fantozzi in ognuno di noi, nei nostri comportamenti umani, basta vedere quante volte lo citiamo, e non solo per l'aggettivo fantozziano, nella nostra vita quotidiana. C'è invece un ritratto del mondo del lavoro che ormai non esiste più, e secondo me tra qualche anno i sociologi del lavoro potranno descrivere un certo mondo del lavoro in Italia guardando proprio i film di Fantozzi. Allora Marta, prima di tutto ti devo chiedere una cosa. Questa mattina ero in macchina con mio figlio, andavamo, lo stavo portando da una parte, ascoltavamo i GR di Radio 24 e lui mi diceva, a 13 anni, mi diceva, il mio figlio maggiore, dice: ma chi è Paolo Villaggio? Perché lui i film di Fantozzi non ne ha mai visti. Allora, ci fosse mai un millennial in ascolto, glielo spieghi? Allora, devo dire subito che la differenza tra i ragazzi di quell'età e noi, che siamo di un'altra generazione, pur essendo ancora giovani, è che noi avevamo la fortuna di vedere anche film non strettamente contemporanei alla televisione. Adesso sembra che se un film ha qualche anno, anche per una questione tecnologica, non guardiamo più film e non trasmettono più film se non in alta definizione, ce li perdiamo. Invece Paolo Villaggio con Fantozzi e non solo fa parte dell'immaginario di molte generazioni, perché lui era nato nel 32, aveva cominciato a lavorare nello spettacolo pur avendo un lavoro normale negli anni 60, aveva subito svelato la sua vena comica con la Goliardia, con un gruppo di amici a Genova, tra i quali insomma c'era anche un certo Fabrizio De André, insieme avevano scritto anche alcune canzoni, due molto famose, e insomma aveva anche questo lato goliardico. Poi a un certo punto nel 1967, parliamo di 50 anni fa, parliamo veramente di tutto un altro mondo, lo scopre Maurizio Costanzo, non tutti lo sanno, lo aveva individuato Maurizio Costanzo e lo aveva portato a Roma. Da lì con la televisione e con la radio Paolo Villaggio inventa dei personaggi fastidiosi, è il primo a fare arrabbiare il pubblico. C'è il professor Kranz, anzi abbiamo un piccolissimo audio del professor Kranz, ce l'abbiamo. Non piace quello che faccio io? Ha! Primo gioco che io faccio? E adesso? Viene io, viene Kranz! A lei non piace quello che faccio io? Pronti? Da qui soldi porti di qua, intanto tu pensi un altro numero. Non lo stesso. Lui brutalizzava il pubblico, il professor Kranz. Quindi ai ragazzi dico: pensate a tutti i provocatori che ci sono in televisione adesso. Invece all'epoca erano tutti molto, molto seriosi e molto rispettosi. Lui è arrivato e brutalizzava il pubblico facendo questo prestigiatore violento. Poi a un certo punto inventa un'altra macchietta, che è quella di Gian Domenico Fracchia, che è quella di un impiegato molto succube, molto timido, molto imbranato. Poi, per iscritto, non ancora al cinema, comincia a scrivere dei monologhi che pubblica puntate sull'Europeo. Racconta la vita di questo impiegato. Adesso noi possiamo utilizzare l'aggettivo fantozziano. All'epoca non si poteva, perché l'ha inventato lui, Fantozzi. Per far capire chi era Fantozzi, lui raccontava un aneddoto. Era un impiegato che aveva conosciuto veramente, che si chiamava Bianchi. Quando lui si è presentato, gli ha teso la mano e gli ha detto: permette. Questo si è alzato e lui gli ha chiesto: ma perché lei si è alzato? E questo gli ha risposto: credevo volesse ballare. E quindi era esattamente questo impiegato imbranatissimo Bianchi che ha ispirato questo Fantozzi, che è diventato poi un film al cinema, che noi abbiamo visto ripetutamente in televisione, nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza. Tu quante volte, Simone? Io tantissime. Tantissime, tantissime. E poi i capitoli di Fantozzi sono stati 10, più o meno belli, i primi di grandissimo valore, e poi qualcuno più di cassetta, e tra quelli di cassetta anche, insomma, sempre scene irresistibili. Ne possiamo sentire qualcuna? Partiamo con la sveglia. Dai, vai, partiamo con la vai, sveglia. Vai. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. Continuerò io a condurre Effetto Giorno, perché sì, Simone Spezia non può proseguire. Allora, qui si vedono anche già i mostri, tra virgolette, che popolano l'universo di Fantozzi. La famiglia, la moglie, che era di una bruttezza singolare, per non dire della bruttezza della figlia, interpretata peraltro da un attore maschio. Le mogli di Ugo Sisio e Milena Vukotic, e la figlia Plinio Fernando. Tante passioni, il suo lavoro, la signorina Silvani, il suo grande amore, e poi una passione per lo sport, perché lui aveva un grande spirito agonistico. Ne parleremo poi anche in Tutti i Convocati. Lui tifava, era sportivo e perdeva sempre, ma ci riprovava ogni volta. C'è una piccola clip per tutti i tifosi d'Italia. Sabato 18 alle ore 20:25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile: calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Beh, è come comunque ormai bisogna vedere tutte le partite. Fammi fare solo un piccolo appunto: la familiare di peroni gelata. Questa mattina è mancata anche Solvi Stubing, che era la testimonial della chiamami birra peroni, in quegli anni. Chiamami peroni, sì, sarò la splendida tua bionda di Carosello. Allora, grazie alla nostra Marta Cagnola. Poi più avanti torneremo, anche perché il nostro Andrea Ferro ha raccolto anche delle voci da Genova, e magari forse non in Effetto Giorno non ce la faremo, perché Andrea Ferro cura anche la rubrica autotrasporti, che andrà in onda alle 13:45, non vogliamo andare, come dire, in overdose, e poi magari sentiremo anche un commento di Dario Ceccarelli proprio sul tema del lavoro e di che cosa ha rappresentato Fantozzi. Intanto passiamo alle altre notizie, iniziando dalle questioni che riguardano i migranti e l'impegno di Francia, Germania sulla relocation, ma soprattutto le nuove regole sulle ONG. L'iniziativa italiana ha prodotto alcuni risultati, mi auguro che generino ora effetti concreti. Così il premier Gentiloni alla conferenza FAO, riferendosi all'accordo di ieri sera a Parigi fra Francia, Germania e Italia. Per il premier una condivisione europea è necessaria per evitare che i flussi diventino insostenibili, alimentando reazioni ostili nel nostro tessuto sociale. Gentiloni non cita esplicitamente dei casi, ma è chiaro che al suo discorso non sono estranee le tensioni delle ultime ore nel bresciano e nel veneziano. Il vertice di Parigi di ieri sera produrrà ora un documento su più punti che l'Italia presenterà giovedì all'incontro dei 28 a Tallinn, in Estonia. Uno dei punti dell'intesa è la necessità di limitare la libertà di movimento delle navi delle ONG, vietandogli l'ingresso in acque libiche. Il protocollo sulle ONG potrebbe spingersi fino a bloccare l'accesso in porto a chi non è in regola. Altro capitolo chiave è quello della distribuzione dei migranti, che ora penalizza l'Italia, che accoglie per lo più migranti economici. Ancora, Roma punta a un ruolo di coordinamento più forte in capo alla Guardia Costiera italiana, al rilancio del piano dei ricollocamenti dei migranti in Europa e all'esternalizzazione delle frontiere italiane ed europee in Libia, sulla scia dell'accordo con la Turchia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è di pochi istanti fa la notizia che la Commissione europea ha al lavoro per preparare alcune misure concrete sul dossier migranti, dopo l'incontro dei ministri dell'interno appunto di Francia, Germania e Italia. Vedremo che cosa ne emergerà dopo le tante manifestazioni di solidarietà arrivate dai vertici europei. Veniamo ai dati sul lavoro. Arrivati questa mattina, diminuiscono gli occupati in maggio. Diminuiscono gli occupati a maggio, primo calo congiunturale dopo 8 mesi. L'Istat stima 51.000 occupati in meno quest'anno nel mese di maggio rispetto al mese precedente, aprile, e 141.000 in più rispetto all'anno precedente, a maggio 2016. Il tasso di occupazione perciò si attesta al 57,7%. Risultano in aumento ad aprile solo gli occupati ultra cinquantenni e i dipendenti con contratti a termine. Non si può ancora leggere come un'inversione di tendenza, spiega Silvia Loriga, ricercatrice Istat. Non interpreterei questo dato come un cambio di rotta, in quanto ad esempio per quanto riguarda l'occupazione osserviamo un calo nell'ultimo mese. Questo calo viene dopo una crescita consistente nel mese precedente, quindi sostanzialmente allineati a 2 mesi fa. Torna a crescere anche il tasso di disoccupazione a maggio all'11,3% dopo il forte calo di aprile. Abbiamo un'alternanza, un trend di decrescita abbastanza visibile dall'inizio dell'anno. In particolare cresce la disoccupazione tra i giovani, che sale al 37%. Rispetto ad aprile, inoltre, sono in 25.000 i giovani in più nella fascia tra i 15 e i 24 anni in cerca di occupazione. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Due fronti in queste ore per il presidente americano Trump: quello interno, la sua battaglia contro i mass media, in particolare contro la CNN questa volta, e poi quello esterno, ossia i rapporti con la Cina, che si fanno più tesi dopo l'arrivo di navi americane vicino alle isole contese. Sergio Nava, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono effettivamente ore complicate per la Casa Bianca su questi due fronti. Su quello interno prosegue la bufera contro Trump dopo il tweet incriminato di ieri, che ha preso di mira appunto stavolta la CNN. Il diluvio di critiche piovuto su Trump sia da parte democratica che da parte repubblicana per la bassezza del video postato online, nel quale, ricordiamolo, il presidente atterra e prende a pugni un uomo col volto coperto dal marchio della rete All News, non ha fatto desistere il magnate dal tornare alla carica con nuovi tweet contro quelli che definisce i media disonesti e contro le fake news. C'è chi motiva questo profluvio di attacchi contro i giornalisti come un tentativo di distrazione di massa dalle numerose manchevolezze di una presidenza che finora si è contraddistinta più per i rumori di fondo che non per i risultati concreti. Non è forse un caso che, tra un attacco e l'altro, Trump abbia inserito anche qualche tweet più politico, col plauso al buon andamento di Wall Street e alla bassa disoccupazione. Tra parentesi, Trump ha promesso che presto torneranno a salire i salari, ammettendo così che su quel fronte le cose non vanno bene. Sul fronte esterno i problemi possono essere potenzialmente più seri. La Cina ha definito una provocazione politica e militare seria la presenza della nave militare americana USS Steeder, a meno di 12 miglia nautiche da un'isola del Mar Cinese meridionale, tratto su cui Pechino reclama la sovranità. In risposta alla presenza americana, le autorità cinesi hanno dispiegato navi militari e caccia, mentre Washington ha definito l'operazione un pattugliamento per la libertà di navigazione. Tutto. E grazie dunque anche a Sergio Nava per questo aggiornamento. E adesso vi vogliamo parlare di un'inchiesta pubblicata oggi sul sito del Sole 24 Ore. Se ne parla oggi anche sul quotidiano in edicola, ma diciamo la parte estesa è appunto sul sito, ed è un'inchiesta realizzata dai colleghi Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi. Roberto Galullo, che è in studio con noi. Ciao Roberto, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. E che mette in connessione il traffico d'oro con Banca Etruria. Ricordiamo che Arezzo, il luogo nel quale è la sede centrale Banca Etruria, è un grande distretto orafo italiano, il più importante distretto orafo italiano, e c'è un tema però che ha a che fare proprio con il traffico d'oro. Roberto, ci puoi riassumere in un punto molto breve quello che scrivete? Poi l'inchiesta è molto ampia e molto approfondita, la possono trovare sul sito? Assolutamente sì, si tratta di un processo che in questi giorni è in fase di svolgimento, che vede il coinvolgimento di un ex consigliere di Oro Italia Trading, totalmente partecipata al 100% da Banca Etruria, ora nuova Banca Etruria, che è coinvolto in un'indagine della Guardia di Finanza per una compravendita poco chiara di oro, che quindi veniva poi utilizzato per compensare il credito che si vantava nei confronti dello Stato all'interno delle partecipate del gruppo Banca Etruria. Gruppo Banca Etruria che comunque non è coinvolto in questa inchiesta, lo è questo singolo appartenente che ora però è stato, come dire, allontanato dalla stessa Banca Etruria. Allora, questo la base di tutto quanto. Vi ripeto, l'inchiesta è molto approfondita, ci sono anche degli elementi storici molto interessanti da ricordare che potete trovare sul nostro sito, la connessione in passato di un pezzo di questo mondo dell'oro mai interamente o completamente provata con Licio Gelli e con la P2, tutti i dettagli sul sito del Sole 24 Ore, grazie a Roberto Galullo. Dunque, e noi a chiudere, prima di chiudere questa prima parte, andiamo a parlare della politica, che ci parla ancora del Partito Democratico, degli scontri all'interno del centro-sinistra. Abbiamo in linea Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, così è proprio, Simone. Adesso Andrea Orlando a sfidare Matteo Renzi per il ministro della giustizia. Il PD deve lavorare ad una legge elettorale maggioritaria e costruire un clima diverso con la sinistra di Pisapia e Bersani. Per Orlando è strana l'irritazione di Renzi a proposito della sua proposta di referendum su un'eventuale intesa con Berlusconi. Evidentemente i nodi non sono stati sufficientemente sciolti, dice il guardasigilli, che ha anche detto sui rapporti con Pisapia e Bersani che si devono decidere se vogliono davvero fare un campo progressista e una coalizione plurale. Ma da parte del segretario del PD c'è un clima di sospetto, soprattutto nei confronti di Massimo D'Alema, sospetto anche per manovre per un'altra scissione. Non inseguiamo insieme di Pisapia, questa è la linea del Nazareno, che parla di operazione mediatica che non ha grandi consensi. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Tra l'altro torneremo a parlare proprio di migranti e soprattutto di racket dell'accattonaggio, perché è questo che si sospetta. Tra poco. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della morte di Paolo Villaggio, poi tra un attimo ci torneremo, abbiamo parlato delle nuove regole in arrivo per le ONG in base all'accordo con Francia e Germania, del calo degli occupati nel mese di maggio, del presidente americano Donald Trump e dell'inchiesta, ve l'abbiamo detto, del Sole 24 Ore, che ha a che fare appunto con il tema dell'oro, della compravendita di oro e di Banca Etruria. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia dicendo innanzitutto all'ascoltatore che ci scrive da Modena, Andrea, giustamente, che Igor non l'hanno ancora preso. No, Igor il russo non l'hanno preso, ed è in fuga anche, come sapete, Johnny lo Zingaro. Igor il russo, Johnny lo Zingaro, ma che è, ragazzi? Insomma, comunque sono 90 giorni che cercano Igor il russo o Igor il serbo. A quanto pare hanno deciso di rinunciare finalmente alle ricerche là, in quello specifico luogo, in quella specifica area, e appunto a questo punto diventa, come ci ha raccontato Daniele Predieri della Nuova Ferrara nei giorni scorsi, una questione di intelligence. Lo si ricerca in altro modo, non sul territorio, dopo 90 giorni di ricerche. Buongiorno ad Enrico Costa, presidente del CEIS di Genova, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti voi. Questo è un tema che abbiamo deciso di affrontare perché ce ne eravamo già occupati in realtà da questi microfoni e in trasmissione. È il tema, per parlare di migranti, non tanto nella fattispecie degli arrivi, delle persone che arrivano sulle nostre coste, ma di quello che succede nel momento nel quale arrivano nelle strutture di accoglienza. In particolare qua siamo in Liguria, dove mi sembra di aver capito che voi Costa, insieme alla a Migrantes, che è la fondazione della CEI che si occupa di migranti per quanto riguarda l'arcidiocesi di Genova, sospettate che ci sia un vero e proprio racket dell'accattonaggio. Ho capito bene? Il termine sospetto ovviamente è un termine blando, noi possiamo riferire quello che si chiamano i rumors, non abbiamo evidentemente delle prove che poi non spetta a noi raccogliere, però volentieri tutto quello che raccogliamo ve lo trasmettiamo. Sì. E che cosa avete raccolto? Noi abbiamo la percezione che nell'ambito della collocazione di persone negli angoli strategici della città per l'accattonaggio vi sia quello che si può chiamare un racket, ovvero sia una distribuzione precisa con allocazione dei posti, con soprattutto la cosa più grave, una retrocessione dell'incasso ad una organizzazione ben definita, insomma. Quello che si può chiamare racket. Quindi una vera e propria organizzazione dietro l'accattonaggio, ovviamente per quanto riguarda il vostro territorio, suppongo, no? Non avete sentore che sia così anche da altre parti? Non possiamo parlare di altri territori, noi possiamo parlare della provincia di Genova e quello di Savona, che siamo le due province dove siamo più presenti. Ovviamente si parla di sensazioni, di impressioni, di commenti che circolano tra uno e l'altro, non è che abbiamo delle prove. Non avete raccolto nemmeno, non siete riusciti nemmeno a raccogliere testimonianze, Costa? Sono molto molto attenti a non compromettersi, perché sanno che ne va della loro esistenza, quindi non è che parliamo, quello che per noi sono spiccioli, per loro c'è di mezzo loro stessi, la loro famiglia, la loro vita, quindi sono molto molto cauti nell'esporsi, nonostante abitano da noi, li conosciamo e li frequentiamo generalmente. Anche perché tra l'altro non ci sarebbe motivo di fare accattonaggio, perché, come dire, sono sostanzialmente mantenuti, no? C'è una cifra, allora, ricevono vitto, alloggio e ricevono anche del denaro per le piccole spese, per quanto poco. Questo è un punto importante, loro diciamo sono coperti per quanto riguarda la vita quotidiana, hanno diciamo tutto vitto e alloggio, hanno un piccolo contributo, difatti noi come organizzazione e anche da altri siamo molto attenti che loro non si dedichino all'accattonaggio, ma esprimano invece i propri talenti e quello che loro vogliono fare quando arrivano, perché le prime cose che dicono quando entrano nella struttura dicono work, work, work, cioè vogliono lavorare. Poi però alla fine magari vengono catturati in questa rete del racket. Un'ultima domanda, Costa, voi non siete mai stati convocati dalla procura o non avete pensato di andare in procura? Noi con la procura abbiamo sempre tessuto dei rapporti tipo istituzionali, soprattutto con la prefettura, con la procura, dove abbiamo cercato anche con altri enti di fare un progetto di sensibilizzazione ai ragazzi affinché non si lasciano incantare dall'accattonaggio, ma dedicano il loro tempo a formarsi o a lavorare con vere e proprie attività che creino valore, non solamente con l'accattonaggio. La ringrazio, grazie Enrico Costa, presidente del CEIS di Genova. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Fabrizio Viola, direttore del Corpo Forestale della Sicilia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, come vanno le cose lato incendi? Abbiamo avuto delle giornate particolari, molto pesanti e dure. Ora la situazione è un po' migliorata, anche perché il clima è un po' diverso, quindi l'emergenza è un po' rallentata. Si è attenuata l'emergenza. Sì, avete sì. Problemi di uomini, mezzi? No, uomini no, le squadre di terra le abbiamo formate tutte per come prevede la legge il 15 giugno. Non siamo partiti, ma i primi 2-3 giorni non eravamo al 100% perché avevamo ancora qualche mezzo da revisionare, da mettere a posto, però per il resto come squadre di terra ormai siamo a pieno organico. Lei deve capire che in queste giornate particolari le squadre di terra e anche i mezzi aerei hanno grosse difficoltà ad operare e a poter fermare il fronte del fuoco. A fronte mezzi come siete messi? I mezzi di terra sono quelli che ha in dotazione il Corpo Forestale Regionale Siciliano, sono stati tutti, quasi tutti revisionati, abbiamo qualcosina su Palermo ancora da mettere su. Chiaramente sono dei mezzi, in alcuni casi anche di una certa età, ma con la buona volontà li abbiamo resi efficienti. E sono mezzi di chi è la responsabilità di questi mezzi? Vostra, della Regione Siciliana, di chi è? No, noi siamo Regione Siciliana, io sì. Sono un dirigente della Regione Siciliana, sì. Sì, la responsabilità dei mezzi di terra è nostra, sì. Nei primi giorni c'è stato qualche problema, soprattutto mi sembra di aver capito di approvvigionamento di carburante addirittura. Non è un problema, approvvigionamento in senso così complessivo, no, cioè nel senso che abbiamo avuto qualche zona della Sicilia, la provincia di Palermo, che non ha avuto subito tutta la disponibilità, però con la disponibilità del comando abbiamo cercato di coprire questo problema. Poi, tra l'altro, abbiamo uffici periferici di grosse dimensioni che devono espletare delle gare di particolare complessità, e quindi aver avuto disponibilità finanziarie, diciamo, a fine maggio ci ha comportato qualche piccolo ritardo. Quindi si è arrivati, diciamo così, per responsabilità in parte di qualche tipo, in parte amministrativa, in parte no, da quel che ho capito si è arrivati un po' impreparati, no, alla stagione degli incendi, perché tanto arriva comunque, chiamiamo la stagione degli incendi e diamo il nome alle cose. Sì, il 15 giugno per noi inizia la stagione, il 15 giugno per legge. Anche se poi nel futuro potrebbe essere un problema da affrontare, sì, perché il clima è cambiato, già a fine maggio, primi di giugno abbiamo grandi problemi, quindi... E ci si è arrivati un po' impreparati quest'anno, Viola, no? Mi sembra aver capito. No, impreparati no, siamo arrivati con tutti i mezzi, poi abbiamo avuto questo caldo eccezionale venerdì, sabato scorso, queste temperature elevate e alcuni gesti sconsiderati sicuramente, perché sì, quando il fuoco viene applicato in più punti, è chiaro che è un problema. La ringrazio, grazie Fabrizio Viola, direttore del Corpo Forestale Siciliano. Una pausa, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi, prima di chiudere, abbiamo ancora lo spazio per un commento, il commento del nostro Dario Ceccarelli su Paolo Villaggio e su questo tema del lavoro e della rappresentazione che ne ha data. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli: morto ad 84 anni Paolo Villaggio, con i film di Fantozzi, gigante della cultura popolare, della satira, della vita d'ufficio. Migranti, nuove regole in arrivo per le ONG in base all'accordo con Francia e Germania, controllo delle coste alla Libia. Calano gli occupati nel mese di maggio, aumenta di nuovo la disoccupazione giovanile, quella generale sale all'11,3%. Trump scontro con la stampa sul fronte interno e con la Cina nel mare, nave americana vicino ad una delle isole contese. Infine, gli incendi in Sicilia. Come avete sentito, la situazione sembra essere un po' più tranquilla, e colgo anche l'occasione per fare una precisazione: non abbiamo parlato adesso col direttore dei forestali, quei forestali che sono in extra sovrannumero in Sicilia, appunto, e che come sappiamo sono uno dei grandi simboli degli sprechi di questo paese, ma abbiamo parlato col direttore del Corpo Forestale, che è un'altra cosa, lo dico perché molti ascoltatori ci scrivono su questo. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Dunque, sapete, la puntata del lunedì è più corta, abbiamo giusto il tempo di farvi sentire questo commentino del nostro Dario Ceccarelli su Paolo Villaggio. Fantozzi è un personaggio tragico, difatti lui è l'uomo più sfortunato in assoluto che la letteratura italiana abbia mai vissuto. Addio, ragionier Fantozzi, piccola rotella di un mondo che non c'è più, ma che non smetterà mai di esistere nel cuore umano. Non c'è più il posto fisso, non c'è più la grande azienda, ma ci sarà sempre, anche nella vita liquida dei futuri precari, un capo che ti schiaccia, un mega direttore galattico che ti disperde nel grande acquario dei lavoratori. Venga. Era il mega direttore galattico in persona. Esiste! L'acquario! Che meraviglia! Che spettacolo! Oh, ecco la sirena Pessi! Il meccanico Molly e l'usciere Tritti sorteggiato. Villaggio Fantozzi, con la sua malinconica comicità, celebra la tragedia dell'esistenza, inchiodato alla sua croce di impiegato, ci fa ridere perché è ferocemente tragico, porta all'estremo la nostra piccola maschera, la rende ridicola. Non c'è scampo, dice Fantozzi, quindi non ci resta che ridere. Vedo, santità, che le manca la triglia. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mario Platero, poi ci risentiamo alla fine per i saluti.